Ed eccoci con la nostra ospite, la signora Elide Bellotti Imperatori, che salutiamo. Buonasera, buonasera Elide. Buonasera, buonasera. Ben trovata, ben ritornata. Ben ritornata con noi. Grazie, grazie. Avevamo proprio nostalgia di lei. Stasera... Molto gentili entrambi, grazie, grazie. Stasera di che cosa ci parlerà? Ma dunque, io l'argomento principe dovrebbe essere ancora uno dei quadri della ballata del millennio, certo. Tanto per continuare il nostro discorso già iniziato. E poi, non so, un pensiero alla primavera che è tornata, certo. Un pensiero alla Pasqua trascorsa, sì. Insomma, qualche cosa per parlare insieme, per ritrovarci, certo. E così sentire il piacere dell'amicizia e di cose vissute che ognuno di noi può certamente regalare agli altri. Ecco, quindi, certo. Io ho questo spirito, in questo spirito mi accingo a salutare ancora una volta i gentili ascoltatori di Radio Blu Veneto. Sì. Allora possiamo iniziare? Sì, sì, sì signora. Sì. Allora iniziamo senz'altro. Allora, gentili ascoltatori, buonasera. Eccoci ancora insieme dopo la nostra ultima trasmissione del mese di febbraio in aria di coriandoli. Ecco, io dico la verità, mi sono sorpresa a pensare che era già passato così in fretta il mese di marzo e anche in gran parte, ormai finito, anche aprile. Sì. Ecco, poiché siamo in maggio. D'altra parte il tempo proprio non si ferma e allora cerchiamo di recuperare almeno quello che di buono, di bello o di interessante possiamo avere fatto in questo periodo. Ecco, vi ricordate che ritrovammo insieme molte tradizioni in odore di crostoli e frittelle, yes. E nello scorrere, non so, di carni carnevaleschi e di maschere festanti. Cercammo insieme infatti di ritrovare almeno in parte quella spensieratezza, dedicandola soprattutto ai nostri bambini. Certo. Poi ecco, lo scorrere dei giorni ci ha riportati al quotidiano, ai suoi doveri, ai suoi pensieri, ma è ugualmente volato e trascorsa la Quaresima siamo entrati nel clima pasquale, all'austerità dei suoi riti e alla gioiosità della resurrezione. La natura ci ha riportati allo splendore della primavera, ai prati bianchi di pratoline, alla sontuosità degli alberi in fiore, ma spesso anche a piogge improvvise, a cambiamenti di temperatura. Un tempo imbronciato a tratti o sereno e ridarello con voli di rondine a rallegrare i nostri cieli. A Bassano ha riaperto le porte in questi giorni ai visitatori il museo civico, più bello di sempre in nuove ed importanti allestimenti. Bellissima la proposta anche di una manifestazione che si è tenuta due domeniche fa, che era intitolata Di rara pianta nel giardino orto botanico Parolini, corredato anche da una bella manifestazione che si chiama Giardini a Bassano e che quest'anno ha visto ancora una volta l'allestimento di 17 giardini in angoli diversi della città che sono legati poi ad una mostra di pittura proprio anche con il tema di fiori e paesaggi. Questa manifestazione si sta già ripetendo da 5 anni e quindi direi che ha raggiunto anche... È un bel tema. Sì, è un tema molto interessante. Molto bello, molto interessante. Un tema molto interessante e anche molto ben sviluppato perché la Pro Bassano ha preso contatti con tanti vivaisti, con tante persone che hanno avuto il piacere, direi proprio, di darci questi allestimenti. Quindi la città, il centro città in particolare, ha un volto completamente nuovo, perché è come se all'improvviso su piazze, su angoli particolari, fossero fioriti alberi, fossero sorte aiuole bellissime, piene di fiori. Quindi è veramente una gioia per gli occhi. Peccato che una giornata come oggi, per esempio, con tanta pioggia, non sia stata proprio l'ideale per gustare i giardini, però io ancora una volta vi invito a tornare a Bassano, certo. Anche per questa manifestazione, perché è veramente una manifestazione molto interessante. Diciamo che è come la città dovrebbe essere sempre, non sempre, solo una volta. Ecco, infatti l'anno scorso, proprio diceva il nostro sindaco Cimatti, molti avevano chiesto che questi giardini restassero, ma voi capite, non è una cosa possibile, certo. Ecco, perché oltretutto richiedono anche molta attenzione per infinite cose, no? Gli allestimenti gli allestimenti sono talmente piacevoli che veramente si pensa come potrebbe essere una città fiorita. Ecco. Ma purtroppo il nostro correre del nostro tempo, queste cose non le permettono. Ecco, per fortuna che adesso parte della nostra città è pedonalizzata. Pedonalizzata, ecco, e quindi ci dà il modo veramente di gustare più da vicino delle cose belle, o di pensare a come sarebbe bello avere tutto l'anno una città così verde, così fiorita. Bellissimo, si cammina bene. Ecco, sa, le cose comunque si può sempre sognare, no? I sogni appunto nel cassetto esistono anche, esatto, per questo, e che una volta l'anno si apra questo cassetto e ci dia questa occasione, mi sembra che sia una cosa molto bella. Certo. Ecco, quindi invito anche i trevigiani a fare una bella gita dalle nostre parti, magari in una bella domenica di sole, ecco, e venire a vedere questa cittadina così in veste nuova. Ecco. Dunque, poi dicevo che questo tempo mi è sembrato pertanto molto ben speso, perché ho visto che è stato apprezzato in ogni sua espressione da turisti e visitatori occasionali. Per esempio, ci sarà una extempore legata a questi giardini, un'estempore di pittura, sì, legata a questi giardini e con l'apporto dei figuranti delle arti per via. Oh, che bello. Ecco, bello. Quindi potrà essere una cosa molto bella. Ah, che bello. Ecco, e siccome i figuranti delle arti per via sono un po' le mie creature, allora sono molto felice di questa iniziativa quest'anno. Ecco, perché veramente, insomma, intanto l'idea dei vecchi mestieri, di queste persone che si avvicinavano agli altri per portare diciamo proprio così la ricchezza, la bravura delle loro mani, ecco, è ancora molto viva nel mondo, perché in effetti, malgrado i grandi, diciamo, i supermercati e così, tutto quello che fa parte invece dell'incontro diretto da uomo a uomo, da donna a donna, ha sempre molta importanza. Quindi ancora oggi, pur non essendoci più gli spazzacamini, non essendoci più gli ombrellai e così via, l'idea anche di queste creature, del loro vivere, del loro girare per il mondo, del loro portare proprio l'arte delle loro mani fra gli altri, ecco, è ancora una idea bella. Ecco. Allora, pensate che questi personaggi faranno appunto, saranno come la vita un po' di questi momenti anche di giardino, e quindi saranno disponibili a tutti i pittori che vorranno riprenderli, e quindi dovrà nascere questa extempore di pittura che poi vedrà la sua esposizione nella chiesa di San Giovanni. Ah, che bello, sì, quindi è una cosa abbastanza bellissimo, interessante. Ma allora adesso ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo, sì, la seconda canzone in programma, sì, che è cantata da Giorgia, Gocce di memoria. Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Siamo gocce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono... Eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, la signora Elide. Signora, siamo qua. Grazie. Allora riprendiamo la nostra narrazione. Sì. È molto bella questa canzone. Proprio siamo gocce di memoria. Gocce di memoria, quello sì. Che cerchiamo di essere, esatto, vero? Esatto. Sì. Molto ben scelta, direi. No? Infatti parliamo di gocce di una storia, di certo, una storia certo. Realmente accaduta. Parliamo di gocce di un passato che ha per noi una valenza storica molto importante e soprattutto che ci fa capire quale può essere il nostro futuro, perché chi non ama parlare del suo passato o del suo presente vuol dire che non si prospetta un futuro, al futuro dobbiamo sempre pensare. Sì. Allora proprio mi piaceva questa sera riprendere con voi il discorso riguardante il millennio di Bassano del Grappa, che voi sapete è stato celebrato nel 1998, qui il tempo va via a gran velocità. 16 anni fa. Pensi 16 anni fa, infatti ci pensavo giorni fa, mi pareva tutto impossibile, di tutto il lavoro che facemmo, di come progettammo i comitati con grande fervore per allestire questa grande festa che veramente ebbe una bellissima risonanza. Sì. Quindi questo millennio che ormai ha già compiuto 16 anni, vero? Fu formato, soprattutto illustrato dalla Ballata del Millennio, che presentava 8 quadri che avevano il valore di ricordare dei fatti realmente accaduti durante questo millennio e di riproporli nei luoghi dove erano realmente avvenuti, e quindi tutta la città aveva avuto un grande significato attraverso i suoi palazzi, le sue piazze, le sue vie, perché certamente era stata vivificata dalla presenza degli uomini, e sono soprattutto gli uomini che fanno la storia. Ecco, quindi oggi pensare e rivedere queste cose è proprio questo momento del ricordo di un passato così pregnante. Allora, uno dei quadri del quale abbiamo parlato nell'ultima trasmissione era quello dell'Arcadia in Brenta, sì, vi ricordate? Sì, spero. Sì, esatto. Ecco, che ci aveva dato poi lo spunto di parlare della poesia dialettale. Ah, e sì. Avevamo detto che appunto anche oggi noi possiamo parlare di una nostra piccola Arcadia, quella delle poesie in dialetto, dei racconti in dialetto, che stanno a rappresentare questo passato, vero? Pur non certamente ignorando quello che è la valenza grande del nostro bel idioma, del nostro italiano. Ecco, quindi l'Arcadia, ho detto io, in Brenta e in Veneto continua attraverso la presenza di questi poeti. Ecco, quindi avevamo parlato del celebratissimo, salotto letterario, ecco, salotto letterario della Egle Euganea, che era la contessa Francesca Roberti Franco, e che si circondava degli uomini più illustri del suo tempo, poeti, filosofi, letterati, politici e perfino economisti, quindi veramente un salotto molto importante. Ma oggi, a questo coro già insomma preannunciato da altri quadri, si aggiunge una voce molto importante del nostro passato, quello della famiglia Remondini, tutto espresso in un mondo di carta, figure e colori. Sì, perché il nome di questi illustri Remondini è legato alla stampa e alle sue molteplici attività e diciamo attuazioni. Ecco, questa arte della stampa quindi viene sotto multiforme attività da questa stamperia Remondini, che è vissuta per circa 2 secoli in un agglomerato di laboratori nei quali crescevano, maturavano i destini remondiniani. Infatti tutto era nato dall'intraprendenza di Giovanni Antonio Remondini, che era giunto da Padova, era padovano ed era giunto nella nostra città intorno al 1650. Vi aveva aperto una bottega dove vendeva filati, telerie, ferramenta e droghe. Un caso però volle che nel 1657 acquistasse un torchio e degli attrezzi di un certo Crivellari, che era incisore a Bassano e che chiudeva la sua attività. E da qui era nato poi il fiorire di grandi iniziative che sono andate via via crescendo. Veramente una storia di grande imprenditorialità, perché le stampe che dapprima raffiguravano ingenue madonne, poveri santi, giunse alla produzione di incisioni rare, di libri e addirittura di vedute ottiche. Quindi pensate che crescere importante che c'è stato in questa impresa, che nel Settecento ebbe la sua massima espansione, tant'è vero che in una piccola città come la nostra dava lavoro ad oltre 1000 dipendenti. Pensate che di padre in figlio, gigantesco. Ecco, la nostra stamperia divenne sempre più nota e soprattutto cominciò a girare, cominciò ad avere nome in tutto il mondo allora conosciuto, perché i tesini, che erano, venivano dalla valle del Tesino proprio, sono stati i venditori ambulanti che hanno portato le stampe remondiniane in tutto il mondo. Pensate che andavano, giungevano perfino nelle Americhe e in tutta l'Europa soprattutto c'era una grande diffusione di queste bellissime cose. Cose che appunto, vi dico, dai poveri santi dei Remondini, che addirittura erano nelle stalle, no? Quando all'inizio dell'anno si ripuliva la stalla, c'era sempre il santino di San Bovo che doveva proteggere le mandrie. E poi divennero, andavano, non so, nei mercati a vendere queste cose, ma poi questa produzione diviene una produzione illustre. Ma l'interessante è che le case Remondini, che voi sapete a Bassano sono in Piazza Libertà, nella parte nord della piazza, proprio di fronte alla chiesa di San Giovanni, e che si presentano con altezze diverse proprio perché ci dicono che in momenti diversi sono state costruite, sono state l'opificio vero e proprio della grande stamperia, perché in esse si sviluppava tutto, dal disegno all'incisione, al colore, all'immagazzinamento, alla spedizione, tutto ciò che è stato poi per il mondo nel nome dei Remondini è partito da lì. Quindi pensate quanto interessante poteva essere questa cosa. Un nome importante? È importantissima, certo. Non solo, ma pensate che nella parte centrale, che è la più bella dei palazzi remondiniani con i suoi bei balconi e così, ed è anche la più alta, alloggiava addirittura la famiglia Remondini. Ecco, ed è noto che in questo piano nobile delle case Remondini, perché non vengono chiamate palazzi remondiniani, no, case Remondini, perché dicono anche proprio del lavoro di queste persone e di tutti quanti hanno collaborato con loro, ma soprattutto in questa parte nobile della casa, del palazzo, vennero alloggiati illustri personaggi i quali passarono per la nostra città ed ebbero contatto con queste persone, e tra questi si ricorda l'arciduca Giovanni d'Austria, Eugenio Beauharnais, Francesco I imperatore d'Austria ed addirittura Alessandro I imperatore di Russia. Quindi voi potete pensare a che altezza di importanza era assurta questa stamperia, perché la stampa viene, diciamo che le stamperie importanti erano a Venezia, ma a un certo punto Bassano contende addirittura l'onore e il primato a Venezia stessa. Quindi direi che è stato un momento, una cosa bellissima, un momento altamente esaltante. Sì. Guardi, date che noi abbiamo anche il museo delle stampe, no? Bassano del Grappa, che è a Palazzo Sturm, c'è una raccolta interessantissima, veramente da vedere, perché pensate che tutto facevano, per esempio ci sono i cataloghi delle vecchie le carte da parati, Ecco, a un certo punto, proprio nel Settecento, la carta d'oro da Parati, che si chiamava così, la carta d'oro Remondini, rivestì tutto il teatro della Fenice di Venezia. Quindi, ecco, non era soltanto il fatto della stampa, ma c'erano, che vi posso dire, i ventagli, c'erano le applicazioni per i mobili, c'era di tutto, insomma, quindi questo fiorire di queste industrie in un modo così importante. Bellissimo. Tanto che ci sono ancora in giro stampe a caratteri cirillici, per esempio, che erano dedicate alla Russia, oppure in caratteri spagnoli per i paesi dell'America meridionale. Ecco, questo vuol dire, più che in lingua, ecco, vuol dire che c'erano grandi richieste anche in questi mercati al di fuori e così lontani da Bassano del Grappa. Dicevo, la fortuna venne attraverso soprattutto i tesini, che erano questi venditori ambulanti che portavano queste stampe in una specie di, le chiamavano le casselle, ecco, delle cassette di legno che portavano a tracolla, e di uno di questi venditori ha scritto una storia molto bella, una delle ultime forse che ha scritto Mario Rigoni Sterna, e che è intitolata La storia di Tolle. Ed è stata, sì, ancora una volta, sì, edita da Einaudi, mi sembra, perché era sempre stato l'editore di Rigoni. Ecco, ed è una storia interessantissima proprio perché parla di questo, narra di questo uomo che va in giro per il mondo con la sua cassella e che poi torna invece a morire qui, in questi luoghi, a Bassano del Grappa, sulle colline che guardano proprio la città, sopra dove c'è il, si va verso, quando si sale per andare verso Asiago, l'altipiano, nelle prime colline dove c'è la nostra frazione di San Michele, l'autore fa morire lì il suo personaggio, il quale torna da questo grande viaggio e muore fra gli ulivi che guardano Bassano. Quindi veramente quella di Remondini è una storia interessantissima e molto bella. Ecco, e ha dato grande lustro alla nostra città, quindi ricordare, arrivare a Piazza Libertà e guardare le case Remondini è soprattutto ritrovare questo momento di lavoro così colto, così importante, insomma, no? Ecco, e quindi ancora un quadro di vita che esalta la manualità, la preparazione, l'ingegno, profusi da studiosi, da incisori e pittori dell'epoca, in una piccola, dico io, vitale città come sì, Bassano del Grappa. Artigiani e artisti al contempo. Soprattutto questa, artigiani. Ecco, poi la cosa durò fino alla metà dell'Ottocento. Ecco, un attimo che ci fermiamo, signora. Sì. No, ecco, chiudiamo questo argomento. Ecco, fino alla metà dell'Ottocento, e l'ultima erede fu una donna, la quale però non ebbe figli, e quindi con lei finì la famiglia Remondini, la dinastia. Vedete, fra un attimo ci ritroviamo. Prego, prego. Ecco. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Umberto Balsamo e si intitola Bugiardi noi. Come solo tu lo sai di essere, preda degli errori tuoi, non puoi più vivere. Hai paura anche con me di poter perdere. Io che ho fatto tutto ormai per farmi credere. Bugiardi chi? Tu bestemmi e non lo sai. Così in alto, così grandi, non lo siamo stati mai. Tutti intorno a noi, che sai, è più difficile. Tu non hai pagato mai con frasi inutili. Ora col passato tu non hai più debiti. Sai, così in alto, così grandi, non lo siamo stati mai. Bugiardi noi, bugiardi chi? Forse tutti intorno a noi. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, alla quale cediamo la parola. Grazie. Allora torniamo a parlare per un attimo ancora della famiglia Remondini, perché vorrei raccomandare in modo particolare alle scuole e quindi ai signori insegnanti una visita alla nostra città, a Palazzo Sturm, dove c'è, oltre la mostra della ceramica che è stupenda, anche la mostra della stampa. E questa mostra è stata organizzata naturalmente in nome proprio dei Remondini in un modo estremamente didattico, molto bello, e quindi si possono con i ragazzi anche fare delle osservazioni e degli studi e degli approfondimenti direi molto molto importanti, quindi penso che una meta da gita scolastica potrebbe essere la nostra città, anche e soprattutto per una visita alle case Remondini, diciamo in esterno, e poi al Palazzo Sturm per la mostra della stampa e della ceramica naturalmente, che resta sempre uno dei nostri fiori capisaldi, giustamente. Ecco. Quindi ecco, le case Remondini non si possono visitare? No, le case Remondini sono ormai tutte case private. Sono state vendute nel tempo e quindi non c'è più la casa Remondini. Pensate che a Bassano oltretutto il ramo dei Remondini e i rami della famiglia divennero due, il ramo delle Grazie e il ramo di Piazza. Il ramo di Piazza è quello che manteneva la stamperia naturalmente, che aveva la stamperia e ne aveva la responsabilità. Il ramo delle Grazie, che è invece su Viale dei Martiri ed è uno dei palazzi più belli seicenteschi della nostra città, ecco, settecenteschi tra la metà di un secolo e l'altro, ecco, che era abitato da invece il ramo della famiglia Remondini che si interessava di più al patrimonio terriero e quindi aveva altri interessi, altre direzioni dei suoi interessi e delle sue peculiarità. Quindi due momenti molto diversi, però mentre il palazzo, la Casa delle Grazie è stata proprietà a lungo, lo è ancora, di una sola famiglia, i palazzi Remondini invece sono stati tradotti tutti in appartamenti, smembrati, evidentemente, quindi. E quindi sono stati venduti più frantumati, insomma, esatto. Ecco, nel senso che ci sono tutti i portici con sotto i negozi che penso conosciate un po' tutti. E sopra, appunto, la parte centrale è ancora, la più importante, quella con i poggioli, quella dove appunto viveva proprio la famiglia, il palazzo nobiliare, e il resto invece che rappresenta ancora però nell'idea e nelle posizioni quello che doveva essere questo grande opificio, insomma. È molto interessante. Sì, molto molto interessante. Sì, direi che è uno dei momenti storici che io ci ho tenuto più ad diciamo ad esaltare anche nella ballata del millennio, perché l'ho sempre trovato estremamente interessante, e molte cose che noi esponemmo in quell'occasione ora sono proprio nella mostra stabile di Palazzo Sturme, che posso dirvi, dai torchi, tutto quello che serviva per stampare e anche per spiegare come potevano essere fatti, per esempio, le lastre, no? E poi affumicate, poi inchiostrate per essere stampate, come avveniva proprio un po' tutto il procedimento del lavoro fino alla finitura della cosa, insomma, fino alla stampa completa. Ecco, questo era la cosa più bella da mostrare. E poi naturalmente in tutto questo anche quelli che potevano essere i costumi del tempo, cioè naturalmente sono delle signore e dei signori del Settecento, dei bambini abbigliati secondo l'epoca, dei sacerdoti e dei precettori che andavano a comperare i loro calepini o i primi libri a stampa prodotti proprio dalla nostra città, quindi mi sembra che era un mondo molto particolare, molto importante, da dover riesumare con grande attenzione. Sai come erano come si vestivano le dame del Settecento? Come diceva? Sì. Come si vestivano le dame del Settecento? Ah, le dame del Settecento? Bah, io credo che le ricche si vestissero a Venezia, perché Venezia, voi sapete, è sempre stato la porta dell'Oriente, sì. Quindi le sete più belle, le cose più belle venivano certamente da Venezia. Però, pensate che nel 600 a Bassano c'era, per esempio, in quello che è proprio adesso il Palazzo Sturm, e che c'era già allora, c'era una famiglia che si chiamava la famiglia dei Ferrari, e questo palazzo aveva anche la produzione della seta. Perché? Perché lì c'era il fiume, quindi c'erano gli orsogli, ecco, che si dice che producessero un organzino di seta più bello di quello che arrivava dalla Cina. Ah, ecco, sì. E quindi anche le nostre campagne, ma in particolare le campagne del Trevigiano, voi sapete che fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno mantenuto la bachicoltura, esatto. E soprattutto le filande. Infatti. Ecco, questa è una cosa che ci lega in parte anche al vostro territorio, ecco, sì. Però le filande a Bassano c'erano già nel 600, quindi questa è anche un'altra, queste piccole chicche che vengono fuori, certo. Mano a mano che nello si parla delle cose. Insomma, la filanda ha una, è di epoca abbastanza remota. Sì, è diamine, dunque loro avevano gli orsogli già nel 600. Mamma mia. Quindi è altro che se remota, soltanto che la filanda, lei sa, ha bisogno d'acqua, quindi sì. Lungo le sponde del Brenta sorgevano anche tutte questi modi di lavoro, c'erano i mulini, c'erano le concerie, c'erano le filande della seta e così via. Ecco, quindi tutto si rifà con attenzione, si ripensa, ecco, e poi piano piano la storia ci si apre davanti come un grande ventaglio. Ecco, io che per esempio venivo da Roma all'inizio anche della mia professione di insegnante, fui molto colpita dalla bachicultura della vostra zona, la feci addirittura a scuola con i miei bambini, che ne sapevano molto più di me sul tema, perché erano abituati ad andare, come dicevano loro, a pelar foia. Esatto. E poi a tutto il giorno avanti e dietro sti bambini a guardare questi bachi che mangiavano come non voraci, so che cosa, le foglie di gelso, e poi fare il bosco e poi tutte quelle cose io le ho imparate dai miei alunni. Anch'io. Che erano veramente molto bravi anche queste a me cose. Piaceva vedere queste cose qua, mi piaceva tantissimo. Cosa si diceva, signora? Mi piaceva tanto vedere appunto quando nel bacco va nel bosco, quando incomincia a filare a fare, sì, poi fare il sì, il filugello, quando il filugello con la sua bava fa poi il bozzolo, insomma. Ma adesso ormai sono cose che non fanno più, non ci sono più. No, non ci sono più, però io mi ricordo che peccato. Ancora il canto delle ragazze che passavano di notte, perché in alcune filande si lavorava giorno e notte, passavano, ed era, credo che venissero da una filanda di Cairano San Marco, passavano sotto le finestre dove io dormivo e io le sentivo cantare, queste ragazze che passavano in bicicletta cantando e andavano a lavorare di notte. Quindi venivano da Cairano in bicicletta fino a Bassano. No, a Bassano, no? Io allora stavo a Volpago del Montello. Ah, Volpago, quindi la zona è proprio del Trevigiano. Lì che ho appunto avuto tutti i segreti della bachicoltura. Perché era proprio in campagna. C'è sempre qualcosa da imparare, sempre. Sì, penso proprio che ci sia sempre da imparare qualcosa. Ma sì, sempre. Ecco, a proposito di questo, ho trovato uno scritto molto bello, che non ha autore, perché autore non l'ho trovato, ma lo scritto è proprio bello e l'avevo messo da parte per leggervelo. Adesso vede, il discorso del ho imparato è venuto fuori da solo. Ecco, proprio perché questo scritto è intitolato Ho imparato. Guarda, un po' allora, se lei adesso vuole far ascoltare qualcosa, sì, ecco, e poi lo leggiamo, va bene? Benissimo, benissimo, signora. Grazie. Bene. Allora, ci ascoltiamo la quarta canzone, cantata da Julio Iglesias, che si intitola Quando si ama davvero. Dimmelo chiaro, se è un addio o se stai solo provando. Dimmelo chiaro, se intorto è mio questo silenzio non è da te. Quando si ama davvero scordi persino chi sei. Senti il tuo corpo leggero e pensi uguale a lei. Quando si ama davvero scordi persino chi sei. Voli al settimo cielo e parli solo di me, e parli solo di me. Dimmelo chiaro, se il torto è mio, questo silenzio non è da te. Quando si ama davvero, scordi persino chi sei. Pensi uguale a lei. Quando si ama davvero scordi persino di sé. Eccoci di nuovo in studio con la nostra signora. Grazie. Allora, parlavamo appunto di imparare. Sì. Allora, questo scritto l'ho trovato per caso, cercando tra le mie molte carte qualcosa che mi serviva per una pubblicazione. E mi è venuto in mano, ma non so né da dove mi venga, perché non c'è autore, non, evidentemente l'avevo trovato e messo da parte e poi dimenticato tra mille altre cose. Certo. Ecco. Comunque è intitolato Ho imparato, ma senta come sì. Finale piacerà. Allora, ho imparato che qualsiasi cosa accada, o per quanto l'oggi sembra insopportabilmente brutto, la vita va sempre avanti e il domani sarà migliore. Ho imparato che si può capire molto di una persona dalla maniera in cui affronta tre cose: una giornata piovosa, la perdita del bagaglio, l'incontro dell'intrico delle luci dell'albero di Natale. Ho imparato, a proposito della relazione con i propri genitori, che ci mancheranno quando saranno usciti dalla nostra vita. Ho imparato che semplicemente sopravvivere è diverso da vivere. Ho imparato che la vita qualche volta consente una seconda chance. Ho imparato che non si può affrontare la vita con i guantoni da baseball su entrambe le mani. Si ha sempre bisogno di gettare qualcosa dietro le spalle. Ho imparato che ogni volta che prendo una decisione con il cuore, generalmente faccio la cosa giusta. Ho imparato che anche quando non sto bene, non devo stare sola. Ho imparato che ogni giorno si dovrebbe uscire e avere contatti con qualcuno. Le persone gradiscono molto un abbraccio o una semplice pacca sulle spalle. Ho imparato che ho molto ancora da imparare. Ho imparato che le persone dimenticheranno quanto detto, quanto fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Oh, ma è bellissima questa cosa. Molto profondo. Oh, sì, bellissima. Ecco, infatti io mi sono sorpresa seduta in studio a dire: ma guarda com'è bella questa cosa. Oh, la voglio mettere da parte se capita l'occasione di leggerla. Ma è bellissima, sarebbe da analizzare punto per punto. È vero, proprio punto per punto. Punto per punto, sì, perché certe cose effettivamente è vero che anche star soli, lo so, ma... si ha bisogno di avere contatti con gli altri. Sempre, sempre avere contatti con gli altri. Io anche se piove esco, signora. Ha ragione. Ombrello e scarpe pesanti, magari cappello se piove, piove a dirotto, ma uscire e dir buongiorno a qualcuno. Ecco, allora non si è già più soli. Io la mattina vado a fare colazione, vado a prendere il caffè al bar. Proprio, ecco, proprio per dire buongiorno a qualcuno. Brava, è la stessa cosa faccio io e me lo sono proposto. Al anch'io. Punto che non faccio più caffè in casa, faccio colazione, poi devo uscire a prendere il caffè. Perché altrimenti si rischia di stare magari in vestaglia tutta la mattina e invece con la scusa di andare a bere il caffè fuori. No, invece ci si veste. Certo, come se ci si veste. Ci si veste, ci si trucca. Ma certo. È una cosa che mi sono proprio proposta prima di andare in pensione. E questo è anche un mio proponimento che sto attuando e che sono felice da attuare. E cerco di andare in un bar dove fanno buon caffè. Certo, certo, anch'io vado in piazza, perché la brioche va bene, ma se non è buono il caffè, caffè è importante, non è caffè buono è neanche. Va bene, ecco. Questa è stata una piccola divagazione. Sì. Comunque direi che valeva la pena di leggere questa cosa. Ma guarda, cosa, veramente, vero? Veramente, ecco. Mamma mia, come possiamo averla? Ma non so, io potrò anche mandarvela per fax, non so, una roba così possiamo farla. Tu Antonio non hai il fax. Via mail, ma anche per lettera eventualmente può andare bene. No, anche per lettera, certo. Vabbè, in un modo o nell'altro. Adesso l'ho tirato fuori, è venuto fuori da solo. Sì, come sì, è venuto fuori adesso ho imparato. Ma perché è bellissimo. Era lungi da me pensare che potesse servirmi per questa cosa. Mi è piaciuto. E invece vede, ecco, il foglietto l'avevo messo in evidenza. Perché ho detto, ma se avanzano 5 minuti, certo, oggi si può lasciare questo pensiero ai nostri ascoltatori. Certo, mi è piaciuto molto quel bisogna vivere, non sopravvivere. Certo, è molto bello, guardi, glielo rileggo molto sì, volentieri. Sì, brava. Perché è veramente importante. Sì. Allora, vediamo dov'è. cosa giusta, eccolo qua. Ho imparato che semplicemente sopravvivere è diverso da vivere. Effettivamente, sì, questo è vero. Da sottolineare, questo è proprio da sottolineare. Certo, ma certo. È molto molto bello. Grazie. Ecco, allora abbiamo ancora un po' di tempo? Sì, sì, certo. Ecco, allora se abbiamo un po' di tempo, invece allora ho trovato sul giornale di ieri e ne ho fatto appunto un mio commento con poi una poesia in veneto che potrebbe esserci, potrebbe esservi gradita, me lo auguro, insomma. Sì. Dunque, tornando quindi a parlare così dello scorrere del tempo e del mio di solito interessarmi dei giornali, delle cose, c'era un articolo che mi ha particolarmente colpito, soprattutto il titolo e poi il contenuto. Il titolo diceva: Coldiretti, due punti, date i terreni incolti ai giovani. In questo articolo che poi ho letto si parlava di una manifestazione in consiglio regionale a Venezia, di un corteo che è arrivato fino a Palazzo Ferrofini, che chiedeva una svolta nella legge al voto, che si trova in questo momento al voto, nella Commissione di Agricoltura. Vi si parlava infatti di 15.000 ettari incolti nel Veneto in mano a società ed enti pubblici lasciati così a se stessi, mentre invece c'è chi sarebbe pronto a farne impresa. Esatto, i giovani. Ecco, allora il giornale diceva: si passerà a nuovi fatti? I nostri ragazzi vorrebbero tornare alla vita dei campi, al lavoro della terra? E perché no? E perché no, ho pensato anch'io, ho detto: ma guarda, tanto terreno incolto e tanta gente senza fare nulla. E questa manifestazione era proprio di tutti i giovani Coldiretti davanti al palazzo del Consiglio regionale, tutti con una in giallo, con una tenuta, una maglietta, una t-shirt gialla e anche un cappellino giallo e ombrelli gialli, ecco, quasi come una grande macchia di sole, io ho pensato, per evocare, no? Appunto, che andavano a dire la loro voce e a portare la loro voce proprio a proposito di questa legge che dovrebbe essere in discussione adesso in questi giorni, insomma, questo progetto di legge, no? Sarebbe bello, ecco, però, che i giovani imparassero a coltivare i campi. E infatti qui diceva che riporta anche delle esperienze molto carine, proprio di un dice: c'è Paolo che nell'isola di Torcello coltiva benissimo i suoi 1000 metri quadrati di orto, ma gli muore il cuore quando sposa lo sguardo al vicino, cioè alla terra del vicino, sì, dove i rovi riempiono la terra del demanio, insomma, questo, no? È il dramma, quindi, sì. Ecco, dice: c'è un ragazzo che ha vinto il bando per gestire una malga tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene, ma non può nemmeno sfalciare per i suoi animali l'erba del confinante terreno lasciato incolto da un consorzio pubblico. Quindi ci sono anche delle esperienze. Certo. E allora così mi è piaciuta l'idea, perché ho detto: ma in fondo i nostri ragazzi, i nostri veneti sono figli della terra. Sono, esatto, ragazzi che si sono trovati poi così con il cambio cultura che è divenuta tecnologica ed industriale, a lavorare nelle fabbriche, a vivere una vita completamente diversa da quella che avevano vissuto i loro nonni. Alienante. Però, magari. Ecco, se adesso il lavoro non c'è, ma hanno la sensazione che questi terreni lasciati lì incolti potrebbero fare impresa, perché se si mettono insieme a lavorare, si fanno dei consorzi, delle cose, possono uscirne fuori anche delle buone cose, del lavoro per parecchia gente, mi è sembrata una cosa molto anche giusta. Anche a me. Ecco, vero signora? Beh, certo. Ecco. Bisogna che qualcuno magari più anziano li spronasse a fare, ecco, questo, che li guidasse. Ma vede che questo poi è partito da loro. Esatto. Perché è partito da loro. Vero, è partito dal basso. È partito quindi dai ragazzi. Qui devono parla, essere spronate le istituzioni piuttosto che i singoli. Certamente. Perché sono... Allora, ecco, lo stimolo deve essere per le istituzioni. Perché si parla di grandi quantità. Dice: secondo i dati del censimento 2010 in Veneto, circa il 2% degli 811.000 ettari di superficie coltivabile non è messo a frutto, perché si tratta di proprietà di enti pubblici, di regole o vicinanze, o di enti privati che non hanno una specifica vocazione agricola. Ma allora io dico: se i ragazzi possono trovare lavoro, certo, ma dovranno pur pensarci, esatto, insomma, esatto, che fanno una domanda del genere. Certo, trovare certo degli strumenti legislativi che consentano, anzi ragazzi che ostacolino. Allora io dico, noi altri non possiamo che parlarne, ecco, perché ma forse già parlando di già una cosa come una questa cosa, in questo momento può andare bene. Ecco, c'è la foto di questi ragazzi tutti in giallo, con l'ombrello giallo, che mi è piaciuta molto. E cosa c'è, anche una poesia in dialetto? Dunque, la poesia in dialetto invece l'ho trovata sempre sulla nostra solita musa triveneta, ecco, e che è del 1951, di certo signor Olivo Bianchin di Casale sul Sile, di Treviso. Sì. La poesia è intitolata Vita rustega. Ecco, la leggo e poi chiudiamo con questo, allora, sì, va, sì, bene? Va bene? Benissimo. Allora, Vita rustica. La primavera s'è già tornata, vestia de verde, tutta infiorada, dove nel ciel di festa un vol, e la me mette rima e cantar non pol. Come la terra presto si sveglia, così se muove la mia famiglia. Non siamo siori, siamo poaretti, e guadagnarsi il pan costretti. Oh, che fatica il desmicchiarsi con l'alba e ai campi dover portarsi. Mentre che tanti, qua, su sto mondo, sogna felici, dorme de fondo. Ma che se l'aria de a mattina, che a respirarla la par più fina, ma che se il canto degli oseletti, musica dolce, che tocca i petti. Che se chi vanga le vide in fila, chi taglia l'erba fresca e sottila, chi col varsoro dai botti ra, sbrega la terra che fuma già. Il sol, che nasce col suo splendor, veste le cose di un bel color, perle, le giosse della rosada, par la natura tutta immagata. Per quanto l'occio se gira al vento tremar, se vede tutto il frumento, che non gaspiga, ma in erba ancora, bene il promette par chi lavora. Già la merenda arriva, e da rente alla polenta chiama la gente, tutti se magna de gusto, e dopo via sul lavoro de gran galopo. Il nostro albergo de mezzogiorno è un gran olmo, là tutti attorno se si distira per il disnar e anche un poco per riposar. Maggio non porta grandi calori, non dà fastidio, non strucca i cori, si può star saldi a lavorar il giorno intiero senza suar. Po' con le tose che no ghe mola, perché se tutti scherze parola, la noia scampa e si ritrova per andare avanti una forza nuova. La mia famiglia, cos'è la sera, ritorna a casa, fa una preghiera, se sente in tola, nessun se lagna, anche se de magro è quel che se magna, se beve un gotto e parna schianta, se ride e scherza, se suona e canta, po' buonanotte. Se va in telletto, finché a svegliarne canta il gaetto. Che bella, ecco. Che bella, che simpatica. Questa qui l'abbiamo legata ai nostri ragazzi che vorrebbero, certo, tornare sui campi. Certamente, ma fa pensare effettivamente questa esigenza, eccetera, e anche naturalmente questa semplicità di vita che ci racconta anche. La semplicità di vita, proprio. Che è quella che necessita, ho l'impressione, al giorno d'oggi, queste complicazioni è e questa alienazione che abbiamo proprio introdotto. Proprio questa alienazione. Questa alienazione introdotta dalla civiltà tecnologica. Tecnologica, se vogliamo anche. Sì, un po' troppo. Sì, purtroppo. E niente. Ritorno ad una vita di questo tipo, esatto, che Dio non potrà mai avverarci così, no, totalmente. Certo. Meno male che ci sono anche dei mezzi che aiutano la vita dei campi, che tolgono una parte di quella che era veramente vero, la fatica bruta del coltivare, esatto, la terra. Esatto, ci sarebbe stato da gestire il cambiamento anziché, certo, subirlo, come, certo, abbiamo fatto nell'epoca. È un gestire che è fatto anche di una maggior cultura, perché i nostri ragazzi oggi possono tornare a lavorare anche con i loro diplomi, con i loro, infatti, una maggior coscienza di tutto. Esatto. Ecco, questo è quello che io ho pensato e ho detto, guarda, quante cose si possono e si dovrebbero dire. Ecco, delle volte si rifiutano a priori, quando invece, esatto, contengono ancora una sostanza che può essere importante. Perfetto. Bene. E con questo noi, con questo noi la ringraziamo, sì, tanto, tanto, tanto. Grazie. Comunque poi ci sentiamo. Naturalmente. Sì, senz'altro, eh. Buone cose a voi, grazie, e soprattutto voi. Buone cose ai nostri ascoltatori. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Buona serata. Buona serata a voi, grazie. Bene, ringraziamo la signora Elide Bellotti Imperatori e adesso... diciamo naturalmente arrivederci, arrivederci, a risentirci alla prossima puntata, e come sempre ciao ciao.